Guarda che luna, luna, guarda che mare, mare, mare, da questa notte senza te non può restare. Vorrei di amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto, soltanto, soltanto, tutto il rimpianto, rimpianto, rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Che luna, luna, luna, da che mare, mare, mare, da questa notte senza te vorrei morire. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare.